Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Last Minute, lunedì 25 settembre, e questa sera alle ore 18 in Biblioteca Sala Borsa, Piazza Coperta, Piazza del Nettuno 3, ovviamente a Bologna. Rientrando in studio dopo il GR di Radio Popolare, sono ben lieto di anticipare quello che sarà l'appuntamento con Arlecchino Danze, quando Castelmaggiore era the place to be. Le foto di Francesco D'Alfonso, detto il Baffo, sono state ritrovate, selezionate e curate da Nicola Casamassima e sono diventate il racconto di una generazione in un libro edito da Pendragon, curato da Benedetta Cucci. Benedetta Cucci, giornalista attenta all'attualità, alla società, alla moda e alle tendenze, ha portato insieme ad altri ospiti di lustro altrettanto importante un lavoro che verrà presentato addirittura alla Sala Borsa, come merita del resto un impegno oltre che dedicato all'intrattenimento, alla cultura e a una storicità che non deve essere assolutamente dimenticata, anzi deve essere da esempio per quello che magari potrebbe essere un futuro, per motivi di alacrità nel lavoro, per motivi di passione soprattutto, con un piede, se vogliamo, nel passato, ma per fare due balzi in avanti e anche di più verso il futuro. Arlecchino Danze a Castelmaggiore, più che un luogo di ritrovo per concerti, per ballare, un ritrovo è un luogo dove grandi nomi in maniera sorprendente aprivano e portavano concerti, musica, realtà culturali ed aggregazione che hanno dato per il periodo veramente una Castelmaggiore definita the place to be. Quindi ascoltiamo la conversazione con Benedetta Cucci per saperne di più e per capire anche come è stato strutturato e la genesi del lavoro. Allora, Arlecchino Danze è veramente un progetto collettivo, potremmo dire un collettivo che nasce per questo libro, per questo ritrovamento di fotografie meravigliose in un archivio della Bolognina da parte di un fotografo della Bolognina. Siamo tutti della Bolognina, incredibile, cioè anche voi tra un po'. E a parte l'Arlecchino Danze, che è una casa del popolo celebre di Castelmaggiore, che negli anni 60 e 70 è stata anche una sala danze epicentro della scena beat musicale italiana. Quindi dico collettivo perché Nicola Casamassima ha ritrovato in una cantina della Bolognina, in via Fioravanti, tante foto di Francesco D'Alfonso, detto il Baffo, il fotografo che poi è stato il suo maestro negli anni 70-80, e ritrovando, potendo mettere le mani su questo archivio, lui che è vorace di archivi, ha trovato tante foto, tra cui questi faldoni con foto di musicisti, ma in particolare, perché certi musicisti danno il lustro, di tutta questa gente che frequentava l'Arlecchino Danze, e ha iniziato a metterle a posto. Visto che ci conosciamo, mi ha detto, ma questo 2 anni fa, mi ha detto: Benedetta, io ho trovato questa cosa, voglio farci un progetto. E io ho detto: beh, facciamo un articolo sul Carlino intanto, perché è un ritrovamento meraviglioso, è un documento. Poi da lì il comune si è interessato, tante persone che in quegli anni frequentavano la Casa del Popolo Arlecchino Danze, che erano dei giovani, si sono veramente emozionati. In particolare ce n'è stato uno che è stato quello che ha detto: no, qua bisogna fare qualcosa. Quindi dietro il comune di Castelmaggiore, poi Pendragon che ha stampato il libro, e lunedì lo presentiamo con gli special guest del libro. siamo nel luogo del beat, siccome è anche, magari se vogliamo, un esempio per quello che era, e chissà, con la dovuta passione, questa, pensate, era musica ovviamente italiana, quindi fate i vostri paragoni. Loro sono i Dick Dick, si parlava della grande epoca beat, per cui ho selezionato tre hit del periodo beat. Sono passati nomi immensi all'Arlecchino Danze. Arlecchino Danze, una casa del popolo, quindi già per dire la passione, le persone che gravitano intorno a quest'importante pianeta, se vogliamo, in un piccolo centro, perché non era né Bologna né Roma né Milano, ma era Castelmaggiore, quindi l'aspetto della provincia, come sa portare questi grandissimi nomi e le immagini. Non è un album fotografico, tutt'altro, è una narrazione, è una continuità, è un esempio di quello che era, e come vi ho detto, tra gli anni 60 e gli anni 70 una presenza importante, un faro dalla provincia, esattamente con l'Arlecchino Danze. Questa sera, lunedì 25 settembre 2023 alle ore 18 in biblioteca Sala Borsa, la nostra conversazione con Benedetta, che ringrazio, procede perché abbiamo parlato di guest, di ospiti importanti, ognuno per una settorialità ben precisa, quindi vi invito all'attenzione. Poi parleremo anche dei protagonisti nei concerti, nei motivi di aggregazione, ma per avere Arlecchino Danze quando Castelmaggiore era the place to be it, beh, dovete dirmi com'era, facile dai, com'era definita per l'epoca una grandissima produttrice, era il suo soprannome preso anche dal suo primo LP. Lei, grandissima produttrice, cantautrice, è stata anche alla conduzione di alcuni programmi TV, era Caterina Caselli. Caterina Caselli, e quindi se mi dite come era soprannominata per voi, 333-180-9494, Arlecchino Danze, quando Castelmaggiore era the place to be it, lo potete ritirare quando lo dirò io alla libreria Ubic in via Ernerio 27 a Bologna. Intanto sentiamo questi ospiti all'Arlecchino. È stata la parte che riguarda le persone di tutti i giorni, come noi che per anni abbiamo frequentato i club, il pubblico, ecco, il pubblico vestito con quegli abiti, che chiedeva gli autografi, che stava sotto il palco come si starebbe oggi al covo, cioè sotto il palco non ci stai più ai concerti, a meno che non siano dei festival, ma in un club, cioè non lo so, poi a quei tempi stavano seduti, però poi dopo andavano anche sotto il palco, perché comunque era l'era beat. Allora, per raccontare tutta questa epopea, io, a parte la visione estetica che ho avuto di questo mondo, una visione estetica sicuramente tradotta attraverso i miei parametri estetici con cui sono cresciuta, quindi quando io ho visto le foto delle persone ho subito visto riviste come ID, The Face, che fotografavano la gente per strada e parlavano di moda, e quindi ho pensato di tirare in ballo persone che, non so, avevano vissuto anche un po' questo tipo di cultura, questo tipo di passione estetica. E allora, ad esempio, ho chiamato un personaggio come Orea Maglià, perché Orea Maglià, sì, volevo che mi parlasse del look dal punto di vista delle pettinature, cioè comunque quel periodo lì dal punto di vista delle pettinature è stato interessantissimo, perché si è passato un po' dalle cofane di Betty Curtis, per dire, al caschetto della Caterina Caselli. Poi ad esempio invece per la componente della nascita di una nuova classe sociale, ovvero quella dei giovani, perché il quarto capitolo del libro si chiama Noi siamo i giovani, e ho voluto un parere di Roberto Grandi, mass mediologo, persona estremamente, ancora lui, anche lui ancora sul pezzo, perché sono persone da questo punto di vista, che vivono, continuano a vivere, a guardare il mondo, e anche il suo contributo è stato bellissimo e mi ha aiutato a capire anche tutta una serie di cose, seppur io avessi poi studiato, perché ho studiato tanto, insomma, per fare questo libro. Per quello che riguarda invece la parte più eredità, case del popolo, lì ho chiaramente voluto sentire una persona sul pezzo da questo punto di vista. Nel terzo capitolo, la classe operaia dall'Arlecchino, converso con Mauro Roda. E invece per il capitolo in cui parlo del look, proprio del modo di vestire, ho interpellato Alice Guastadini, che è una grande esperta di vintage, grande appassionata, organizzatrice del mercatino Era Ora Market. Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Eppur mi son scordato di te, non le ho detto di no. T'ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione, nasce da una distrazione. Gli artisti erano tutti quelli che negli anni sono stati famosi, quindi diciamo così, però faccio un passo indietro. Allora, c'era tutta la creme della creme. Sfogliando il libro ci sono Giorgio Gaber, Dario Fo, se vogliamo poi parlare anche di personaggi che avevano una rilevanza anche nel mondo dello spettacolo e della cultura. Little Tony. Nella copertina c'è Little Tony, però poi ci sono passati Giuliola Cinquetti, Betty Curtis, i Dick Dick, tantissimi, cioè proprio tutti quelli che dell'epoca che andavano c'erano. Ma perché c'erano? Questa cosa ce lo spiega la cioè uno dice, ma com'è possibile che a Castelmaggiore, nella provincia di Bologna, passavano tutti questi che manco passavano a Bologna? Perché è questo il punto interessante. Perché a Castelmaggiore c'era Franco Basti, che è il signore sulla copertina del libro, che si fa largo tra il pubblico delirante e prende per mano, per il polso, Little Tony, perché lo porta sul palco. Questa foto per me è tipo un dipinto di Caravaggio, cioè una roba con un movimento anche per dire il baffo, ma che occhio aveva, cioè nel ritrarre le cose in una maniera traslata veramente dal cuore della sua cultura. E quindi Franco Bassi era fondamentale. Lui faceva il macellaio e aveva prima un negozio, cioè di famiglia contadina, poi macellaio, lavorava alla Coop nella macelleria e poi dopo ha iniziato a fare l'impiegato. E tutto il suo tempo libero, perché qua si parlava di volontariato e tutti erano volontari, lui faceva il super manager dell'Arlecchino Dante. E la foto che si vede ad esempio della Gigliola Cinquetti, Gigliola Cinquetti aveva appena vinto il Festival di Sanremo e cavoli, qualche giorno dopo era l'Arlecchino e dice: dai, non è possibile. Cos'era successo? Era successo che Bassi era andato in spedizione a Sanremo parlando con i manager, aveva preventivamente firmato un contratto per avere la Cinquetti all'Arlecchino Dante. Lei vince e ciao, arriva Castelmaggiore. Ma delle storie così, cioè di... Questo è bellissimo, perché non per fare sempre la solita retorica, perché gli Emiliano Romagnoli sono lavoratori eccetera, però cavoli, lui faceva questo lavoro di manager, che adesso c'è gente che studia all'università insomma per fare il manager di concerti, anche di club, all'università intendo, che comunque fa una preparazione. Cioè queste persone avevano questa indole del fare, no? Quando si dice il partito del fare, e non nomino il partito perché ahimè è diventato più uno slogan che una realtà. A quei tempi era proprio così, c'era proprio l'indole del fare, la gente faceva come faceva alla Coop, perché lui lavorava alla Coop, lo faceva anche lì, ma con un estro, con una capacità incredibile, e tutti quelli che lavoravano erano persone così. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre, una... Poi d'improvviso lei sorrise, e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei, stretto come se non ci fosse che lei. La città correva incontro a noi, il buio ci trovò vicino, un ristorante poi di corsa a ballar sotto braccio lei, stretto verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei, come se non... Beh, se la musica italiana fosse così ne metterei di più, settembre. Mi sono svegliato e... Il lavoro di Benedetta Cucci, capito perché parlavo di un esempio, di uno sguardo, insomma, di qualcosa che dà una spinta, se vogliamo, oltre che il lavoro di ricerca, di reportage, di passione, con dei personaggi che appunto venivano spinti da questa caratteristica. Ho selezionato tre brani, i primi Dick Dick, a seguire poi abbiamo ascoltato i Formula 3, in conclusione Equip 84, che per me sono un po' i tutti i tempi dell'epoca del beat italiano ed è la colonna sonora del Last Minute di oggi. Arlecchino Dance, quando Castelmaggiore, The Place to Beat, la presentazione del lavoro di Benedetta Cucci questa sera, lunedì 25 settembre, non è il 29 settembre ma il 25 settembre alle ore 18 in Piazza Coperta, Piazza del Nettuno 3 a Bologna. Il quiz è stato vinto, quindi il lavoro di Benedetta Benedetta Cucci, è stato vinto da Alessandro, che oltre ad aver anticipato di poco Dino ha dato una definizione più precisa: il casco d'oro, come ha risposto Dino, è il primo disco di Caterina Caselli. Lei poi sarà soprannominata, vista anche l'acconciatura, caschetto d'oro. Quindi Alessandro, sarai contattato, potrai ritirare il tuo premio alla libreria Ubic. E a breve, beh, il last minute è stato un po' esteso, ma del resto mi ha appassionato molto la conversazione con Benedetta, che ringrazio. Quindi a breve, dopo la pubblicità, riprendiamo subito con i magazine del lunedì. A tra poco! The smell of salted tropical herbs fill the air, enough to make my mouth, eyes and ears water. Add what you like. Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? E poi questo last minute appena trascorso può essere assolutamente abbinabile ai magazine, lo uniamo ai magazine anche per motivi di conduzione, in quanto la linea è un dialogo tra passato e presente, ma un passato passato anche se super importante e fondamentale. Ho iniziato con il buongiorno citando le Idi di marzo e portando ottobre come ottavo mese dell'anno, del resto il calendario degli antichi romani così appunto definiva i mesi. Per i classici antichi, un grande storico che appunto per quanto riguarda la narrazione, uno sguardo al passato per essere il più grande rinnovatore. E quindi ci colleghiamo a quello che abbiamo presentato poc'anzi, un propagandista di Cesare. Beh, certo, dopo le Idi di marzo, con l'accoltellamento di Cesare, è stato Sallustio un po' più, non dico distratto, ma con una visione diversa, e molti l'hanno criticato per questo e guardava solo al passato. In realtà non è esattamente così, è certo un pessimista, questo sì, ha una visione del futuro più pessimista, ma indubbiamente un grande innovatore per quanto riguarda la realtà di studio e di approfondimento per l'antica Roma. Moralista, ma Arnaldo Marcone riconsidera l'opera e la grande capacità analitica dello storico di Amiterno nel drammatico collasso repubblicano. È un saggio molto bello che giustamente si intitola Sallustio, edito dalla Carrocci, tra politica e stile, un pessimista per la crisi di Roma. Ma per avere un ponte tra tutto ciò, portando le epoche avanti e indietro nel tempo, da Alias della Domenica a pagina 7, per quanto riguarda il bellissimo articolo dedicato allo storico dell'antica Roma, arriviamo alla Domenica del Sole 24 Ore, che salto nel tempo, dove abbiamo una nuova definizione. A pagina 2 facciamo largo alla generazione dei perennials, millennials, generazione XYZ, LGBT, quanti recinti che stiamo creando, però parla di demografia. Mauro Gullen spiega come le distinzioni fatte sulla base dell'età anagrafica siano ormai inadeguate, e sono pienamente d'accordo. il futuro appartiene agli ultra sessantenni che non pensano né agiscono secondo gli stereotipi. Anzi, dà una particolare attenzione, probabilmente per quello che mi è piaciuto questo articolo, alla generazione di mezzo, cioè tra i 50 e i 55 anni, dove la capacità dice: non perdete di coraggio, non arrendetevi, avete la possibilità di uno sguardo in questo contesto di cambiamento alle due parti. Questo dovrebbe portarvi a una conoscenza e una consapevolezza importante, per cui non lasciatevi andare, ma tutto sta cambiando, una volta com'era, anzi tutt'altro. Grazie a questa esperienza che avete vissuto, la possibilità poi di essere in contatto con quello che sarà, indipendentemente dalle definizioni di boomer e quant'altro, che sono insopportabili, perché giustamente, come spiega il saggista Mauro Gullen, le distinzioni sulla base dell'età anagrafica sono veramente inadeguate e dannose, e qui ci spiega anche il perché. Economia Società, pagina 2, dal Sole 24 Ore, l'inserto è la domenica, che come ben sapete è uno dei fari illuminanti dei nostri magazine. Loro sono i TV on the Radio, Dear Science, uno dei loro dischi più belli. Ascoltiamo Crying, a tra poco. Makes the news of the track. Codes, feelings meant global, like coke in the nose of the nobles. Keeps it alive. Riots and the race is on fire. Dal disco Cara Scienza, Dear Science, e infatti vediamo protagonista pagina 16, sempre per la saggistica, sapete, è una rassegna di saggi anche nei magazine che hanno attirato la mia attenzione durante il weekend. Siamo sull'inserto della Stampa, che tra l'altro dà un filo conduttore chiaramente agli argomenti trattati. E più portiamo definizioni sia dall'aspetto demografico, dall'età anagrafica, dall'orientamento sessuale, più diamo dei recinti, più è difficile poi portare tutti insieme a considerarci prima di tutto delle persone. Ognuno ha l'etichetta, che brutta cosa l'etichetta, anche perché dopo, come ben sapete, le etichette diventano più importanti della personalità stessa, ed è una cosa, secondo me, veramente non bella, ecco, questo parere personale. Ma per i cambiamenti e la saggistica, un pamphlet che troviamo, come ho già detto, a pagina 16 di Tutto Libri, ci parla di un prolungamento del nostro corpo, o ormai siamo diventati noi un prolungamento di questo oggetto, che ricordiamo resta un oggetto. È lo smartphone, che è rivoluzionario come la ruota, ma capire come funziona è molto più difficile. Miliardi di profani abitano il mondo dell'informatica digitale, mosso da poche migliaia di tecnici geniali. Infatti, quando qualcosa è dominato da una piccola quantità rispetto alla maggioranza, sapete bene poi come va a finire. Per quello che tutta la digitalizzazione andava al più possibile nazionalizzata dall'inizio, invece è stata lasciata al privato. Privato, voce del verbo privare, cioè togliere. De Martin lancia un appello alla consapevolezza nell'uso di uno strumento che apre illimitate possibilità. Certo, questo è vero. La parte più interessante di questo long format è riguardo la nozionistica e l'apprendimento. Porta l'esempio: si imparava leggendo un testo e poi si ripeteva facendone un sunto di quello che si aveva compreso. Questo evita l'essere degli analfabeti funzionali. Oppure si ascoltava una spiegazione, si elaborava, si interpretava e poi se ne dava una risposta durante un colloquio o con l'insegnante o con un interlocutore. Ma questo ha impoverito le capacità di comprensione e elaborazione mentale. La nozionistica non è più importante, tutto quello che ho detto finora non è più fondamentale, perché tanto abbiamo questo prolungamento del nostro corpo che ci dà tutte le risposte di cose anche che sembrano le più banali, per cui voglio dire, non abbiamo più bisogno, che so, le province del Piemonte. Sarei curioso veramente che qualche millennials, come si chiamano adesso, mi enunciasse le province del Piemonte così, una dietro l'altra. A noi le facevano imparare a memoria, ma giustamente, era un fondamentale della geografia conoscere tutto ciò. Adesso non è più tanto importante, basta avere lo smartphone, digiti, ti dà la risposta subito, no? Ho portato un esempio molto immediato, molto semplice. Chiaramente poi, se estendiamo tutto ciò, troviamo del lavoro che anche nella comprensione di testi ben più elaborati. Certo, è semplicemente non da imparare a pappagallo, ma da imparare in maniera più approfondita e, se vogliamo, anche dal punto di vista della scienza stessa, qualcosa che non basta semplicemente averne una risposta su schermo, su smartphone o su tablet. Servirebbe qualcosa di più anche per la quotidianità nel riuscire a interpretare un testo. Tutto ciò ha alleggerito le nostre capacità, e per quanto riguarda la definizione di comporre un'elaborazione mentale e scomporre un'elaborazione mentale, come dice l'autore dell'articolo, ecco, lo smartphone non è certamente innocente davanti a tutto ciò. In quanto già dal titolo contro lo smartphone è rivoluzionario come la ruota, ma capire come funziona, certo, è molto molto più difficile. Rivoluzionario come la ruota, indubbiamente, però è stata poi una rivoluzione che ha coinvolto tutte e tutti. Questo oggetto qui è un po' diverso, è un po' differente. E pensiamo anche a un'altra cosa: il telefono serve per telefonare. Adesso con il telefono che è sempre con noi paghiamo il caffè, possiamo andare al cinema, abbiamo il conto corrente, abbiamo tutta la nostra scheda sanitaria, abbiamo... comodo, vero? Però pensate, con un click vi possono bloccare tutto ciò. Ecco, questa è la bellezza, no, della digitalizzazione completamente in mano ai privati. Basta un click che ti tolgono tutte le realtà che ho appena elencato. E c'è un altro aspetto di cui sono molto sospetto, perdonate la rima. Questo è per il telefono. Pensateci un attimo: come escono adesso dalle concessionarie tutte le automobili? Non sono loro stesse dei computer? Quindi ecco, questo potrebbe essere già un motivo di riflessione per quanto riguarda avere un contenuto così immenso su una quotidianità o su un accessorio o un mezzo di continuità nella nostra vita, che potrebbe portare, anzi potrebbe, può portare a un controllo ben più esteso. E chi c'è dietro questo controllo? Boh, l'ho detto prima, ma va. Mossa de feia não tem nada. Seus defeitos me deixaram enfeitiçado. Moça feia, sua inexatidão me desarma. Quero ser seu namorado. Toda vez que você diz que é feia, chamo a lua pra ajudar, pra mostrar no seu espelho. Porque eu fui me apaixonar, toda a imperfeição da natureza. E intanto godetevi questo brano di Vinicius Cantuaria, Naive, la casa discografica, uno dei suoi dischi più belli, Indio de Appartamento. Collaborazioni Bill Frisell e qui al pianoforte Ryuki Sakamoto. Una scrittura di tropicalismo con un modern jazz apparentemente distaccato, ma è un esempio di jazz modale e tropicalismo di una raffinatezza veramente molto forbita. Grazie Sergio che chiede: mi raccomando, tieni l'articolo che dice che il futuro degli ultra sessantenni lo terrò sul comodino per addormentarmi felice. E quindi guarda, su queste belle parole ti lascio con il brano di Vinicius Cantuaria, poi la pubblicità. Grazie Sergio. E a proposito di insegnamenti, la seconda parte dei magazine vedrà due protagonisti, due grandi, grandi maestri, uno per quanto riguarda un aspetto più scientifico e uno per un aspetto più umanistico. Ci sentiamo tra poco. Toda vez que você diz que é feia, chamo a lua pra ajudar. Pra mostrar no seu espelho, porque eu fui me apaixonar, toda a imperfeição da natureza basta pra te desmentir. Te emprestar meus olhos pra... você se olhar e rir. Moça feia, que de feia não tem nada. Moça feia, quero ser seu namorado. Del quadrato dei cateti è uguale a... Mai stato un genio in matematica, però beh, chiaramente quello che ho provato a denunciare con un velo di malcelata emozione è il grandissimo Pitagora di Samo. L'aeroporto di Samo si chiama appunto Pitagora, si parlava la volta scorsa di aeroporti e quando atterri trovi il monumento di questo filosofo matematico con, è ovvio, il triangolo rettangolo verso il cielo. È ve l'ho detto, parliamo di due grandi maestri in rientro, uno per la matematica, ma non solo, per la geometria, matematica, le materie scientifiche, no, lui grandissimo, grandissimo filosofo, studioso, anche artista, scrittore, beh, un tempo, come ben sapete, c'era un aspetto più esteso, è Pitagora, è il demone pitagorico, è a pagina 21 di Robinson di Repubblica, che ora esce alla domenica, Poi facciamo una piccola divagazione, ma importante, musicale. Grazie Lino, grazie a te, buongiorno. Veramente bello il brano di Vinicius Cantuari, autore che non conosco, per cui grazie. Grazie a te, buona giornata a te e ovviamente a Wolfino. Ti ricordo che Vinicius Cantuari ha pubblicato diversi dischi. Indio de Appartamento, che è uscito nel 99-2000, adesso esattamente la memoria mi può ingannare, però se vuoi iniziare l'ascolto di Vinicius Cantuari, questo è veramente un tutti i tempi. The world inside a grain of sand, looking out through a fish eye. Il viaggio è la verità. Journey to the truth. The journey to truth. Di Pitagora, da cui poi ci sono diverse evoluzioni e anche aspetti filosofici non indifferenti, l'articolo su Robinson di Repubblica ha definito un demone, è la legge più conosciuta della matematica, ma per Paolo Zellini ci insegna qualcosa che va oltre le dinamiche di un triangolo, sì, decisamente, riporta poi al 3, che ha una certa, per così dire, attinenza con quello che è il numero perfetto, si dice, no? Beh, dal teorema di Pitagora, per quanto riguarda tutto ciò che è elettronica e elettrotecnica, a proposito di 3, è fondamentale V uguale R per I, che ha certe attinenze anche con il teorema di Pitagora, e probabilmente Ohm ha trovato questa formula anche ispirandosi a tutto ciò, per cui, come dal passato, l'esposizione diventi poi con un'interpretazione quanto mai evoluta qualcosa di moderno, portando l'energia elettrica in ogni casa e ovunque. Tutto è luce con V uguale R per I, cioè la tensione è uguale alla resistenza per l'intensità di corrente, e poi con le formule inverse puoi trovare tutto quello che ne consegue dopo questa lezione di elettrotecnica. Colleghiamo invece a un grande poeta del Novecento italiano, che a pagina 5 di Alias, edizione della domenica, questa settimana molto denso di contenuti. Parlo di un poeta livornese che a me piace tantissimo, è Vittorio Caproni. Non sapevo che lui fosse un maestro elementare. Tra l'altro era amatissimo, fantasia e dolcezza, un maestro sensibile. Lui non voleva assolutamente saperne di usare la bacchetta, anzi diceva: un alunno bocciato è il fallimento dell'insegnante. La geometria, e quindi ci colleghiamo all'aspetto precedente, può e deve mirare alla formazione morale del ragazzo: retta, semiretta, segmento, la vita infinita di Dio, la vita dell'anima e così via. le sue grandi capacità appunto erano quelle di dare, a proposito di geometria, un'intersezione fra tutte le materie e portare un aspetto dialogico nell'insegnamento. Oltre che poeta e scrittore, in questa raccolta dal titolo Registro di classe, da Garzanti Editore, con la classica copertina dei registri di classe di un tempo, dà indubbiamente un aspetto importante a quella che era la formazione per i giovani. Beh, del resto ora vedete come cambiano poi le cose, c'è il registro elettronico. If I refuse to trust of my instinct and instinct and se ho una grande vincita, prendo tutti i saggi, compro tutti i saggi qui presentati oggi nei magazine, uno più bello dell'altro, molto interessanti. Bisogna avere una grande, insomma, una discreta, dai, disponibilità, perché purtroppo il costo non è esattamente così lieve, anzi tutt'altro. Del resto il contenuto è di un certo spessore. Quindi a seconda delle tasche scegliete il vostro, tra Pitagora, Vittorio Caproni, quello sullo smartphone, quello su Sallustio, insomma un voltiamo pagina sulla saggistica tratto dalla rassegna stampa culturale dei magazine al lunedì su Radio Città Fusina. Data del Corriere della Sera, che non prendo, ma giuro, con la lente di ingrandimento ho provato a interpretarlo. È anche normale che sia così piccolo questo schema, in quanto sono portati tutti gli stati, tutte le nazioni al mondo, con tutte le organizzazioni internazionali, e se con una retta fate intersezione tra lo stato e l'organizzazione internazionale, vi dà uno specchio, non uno specchietto, perché è una pagina doppia degli stati e la relativa organizzazione. Questo per quanto riguarda invece la geopolitica internazionale, visto che abbiamo parlato di diverse materie quest'oggi. Per concludere i nostri magazine con questo giro geopolitico intorno al mondo, io vi lascio con The KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, e così magari ballate anche un po', visto che a lunedì serve una scossa in più. Eccola qua. Breve la conferenza stampa di presentazione del Jazz Club Torrione, quindi venerdì inizieremo con il Jazz Live. Get down tonight. No, lo so che avevo il microfono aperto, lo so. Domani Move to Groove, la nostra settimana è iniziata, quindi io mi congedo a voi per questo lunedì 25 settembre. A breve Lady Peo, dopo la pubblicità, Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, lo sport con Mingo & Company e la prima colazione in diretta, che sarà puntuale domani alle ore 7. Grazie per l'attenzione, grazie per aver scritto e aver fatto co-conduzione e colazione con me. L'appuntamento alle super mattiniere e super mattinieri è domani, sempre alle ore 7. E dal vostro William Piana, un buon lunedì e un caloroso abbraccio. Ciao a tutte, ciao a tutti.